24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'appuntamento di oggi con 24 ore in Europa si apre ancora con la crisi libica. A dominare la giornata sarà infatti il vertice internazionale in programma a Londra. Sulla posizione italiana e i rapporti con gli alleati continentali si è espresso il ministro degli esteri Franco Frattini, che ascolteremo. Sempre in primo piano l'emergenza immigrazione in Italia, ma oggi analizziamo anche le conseguenze delle sconfitte elettorali dei partiti di centrodestra in Germania e in Francia nelle elezioni locali. E parleremo pure di cinema con una coproduzione italo-tedesca e di Gheddafi se ne deve andare immediatamente. La transizione in Libia deve essere affidata al Comitato Nazionale di Transizione. È quanto hanno sottolineato in una nota congiunta il presidente francese Nicolas Sarkozy e il premier britannico David Cameron alla vigilia della conferenza internazionale londinese dedicata proprio al paese nordafricano. Il ministro degli esteri italiano Franco Frattini, dopo aver annunciato domenica un piano italo-tedesco, rettifica così la sua posizione. Sentiamo Frattini. Io in realtà non lo chiamerei un asse italo-tedesco, sono delle idee che oggi ho anche condiviso con altri colleghi, ho parlato con il collega francese ad esempio stamattina, con il collega svedese, oggi pomeriggio ne parlerò con il ministro Davutoglu della Turchia. Occorre una soluzione condivisa, è evidente che la soluzione politica ci deve unire, non ci deve dividere, e quindi così saremo più forti. E della missione in Libia, ma anche di euro, ha parlato alle Nazioni Unite il capo dello Stato italiano Giorgio Napolitano. Parla al Palazzo di Vetro Giorgio Napolitano, il capo dello Stato torna ad intervenire a sostegno della missione in Libia e ricorda come il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite contempli specificamente l'uso della forza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Il mondo, spiega il Presidente della Repubblica, non poteva assistere senza reagire alle molte vittime e alle distruzioni massicce inflitte dal leader libico alla sua stessa popolazione. L'intervento in Libia, puntualizza Napolitano, non significa pretendere di esportare uno specifico modello di democrazia, ma promuovere e proteggere i diritti fondamentali come precondizione per l'autonoma realizzazione di sistemi democratici. Napolitano si dice quindi preoccupato di fronte all'ondata di disordini che ha sconvolto molti paesi del Nord Africa, Medio Oriente e Golfo, ma avverte: il mondo deve aiutare questa nuova alba contro le dittature. Quindi il dramma del Giappone, è tempo che la comunità internazionale ricambi la generosità che quel paese non ha mai mancato di esprimere. Infine, la crisi economica, nessuna marcia indietro sulla moneta unica, dice il Presidente della Repubblica, la solidità dell'euro è fondamentale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Resta intanto molto grave l'emergenza immigrazione in Italia come conseguenza della crisi libica. A Lampedusa la situazione è infernale. Il Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, è pronto a proporre al sindaco dell'isola di presentare ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo, così l'assessore della Regione Siciliana Mario Centorrino. Il servizio non esclude l'ipotesi di rimpatri forzosi. Il ministro dell'interno Maroni, se la Tunisia non rispetterà gli accordi presi con il nostro paese bloccando le partenze dai suoi porti, se ne parlerà mercoledì nel Consiglio dei Ministri, chiamato anche a dare il via libera al piano che prevede l'evacuazione con 6 navi di tutti gli immigrati arrivati a Lampedusa. Maroni, che richiama la Commissione europea alle sue responsabilità, in settimana comunicherà anche la lista con il numero di immigrati che ogni regione dovrà ospitare. Alle responsabile del Viminale si è rivolto oggi preoccupato il governatore della Puglia, Vendola. Perché il ministro Maroni non ci ha chiamato per la seconda volta al tavolo per dire questa è la programmazione degli interventi? E se poi io leggo che dal Veneto e dalla Lombardia si dice qui neanche un immigrato, allora che cosa succede? Che la Sicilia e la Puglia per intero sulle proprie spalle porteranno il carico di non sappiamo che cosa? Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Allarghiamo ora lo sguardo all'Europa. Lo scorso weekend sconfitte elettorali pesanti sia in Germania, dove la cancelliera tedesca Angela Merkel ha perso il Land del Baden-Württemberg dopo 58 anni di governo CDU, sia in Francia, dove il presidente Nicolas Sarkozy è uscito perdente dalle consultazioni cantonali. Partiamo dalla Germania, dove cerchiamo di capire quanto abbia pesato la vicenda nucleare sull'esito elettorale. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, al microfono di Anna Migliorati. Prima dell'incidente atomico di Fukushima i Verdi erano in risalita nel Baden-Württemberg, ma certamente l'incidente nucleare ha provocato una spinta molto forte, tanto che a questo punto i Verdi sono ben oltre il 20% e sono diventati il secondo partito

determinati individui. Quindi, a parte casi molto eccezionali, un caso come il nostro, a quanto mi risulta, non si è verificato. Gli spettacoli è una coproduzione italo-tedesca, La fine è il mio inizio, film sugli ultimi giorni di Tiziano Terzani, in uscita il 1 aprile in Italia. Il regista è il tedesco Jo Baier, protagonisti lo svizzero Bruno Ganz ed Elio Germano, vincitore del premio come miglior attore all'ultimo Festival di Cannes. Tra gli sceneggiatori Fosco Terzani, figlio del grande giornalista e scrittore. Lo ha intervistato Marta Cagnola. Ho l'impressione che i messaggi giusti arrivano al momento che sono necessari, no? Per cui forse appunto emerge una cosa del genere proprio perché ce n'è bisogno? C'è bisogno forse di un ripensamento? E allora mi sembra a me, poi potrebbero esserci molte altre cose, ma mi sembra che il modo più profondo di approcciare un ripensamento è attraverso la morte, perché la morte è l'inizio della vita, cioè si inizia dal buio e si ritorna al buio. E parlando di questa cosa si può fare una tabula rasa, rincominciare da capo e cercare di capire cosa sono i veri valori. Tutto è meraviglioso, è grande, enorme, uno può diventare re, ridiventare mendicante, però alla fine la più grande cosa che succede nella vita è la morte. Lo sport per chiudere, prima della gran finale di Champions League e della corsa ai titoli nazionali, nel calcio europeo si comincia a pensare già alla prossima stagione. Gli americani sono sbarcati a Roma. Sentiamo Dario Ceccarelli. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta me chi don fa fan. Eh sì, l'America è arrivata a Roma nella persona di Thomas Di Benedetto, 61 anni, l'imprenditore di origini salernitane che guida la cordata Stelle Strisce interessata all'acquisto del 60% della Roma. Il manager è arrivato nella capitale per definire gli ultimi passaggi della trattativa e l'incontro sta svolgendosi adesso presso l'istituto legale Grimaldi. Dovrebbe concludersi mercoledì con la firma. Gli americani dovrebbero versare 77 milioni. I am very happy, ha detto questo ex italiano che guida la cordata. Il mio sogno è far vincere lo scudetto alla Roma e di essere competitivi nella Champions League. Il manager parla anche di 6 colpi di mercato, fuochi d'artificio, eccetera, eccetera. Bene gli entusiasmi, ma ci sono dei problemi. Uno è quello del bilancio, cioè riportare la società nei parametri del fair play finanziario. L'altro è l'ambiente, questo contrasto che c'è tra American business e spaghetti alla matriciana. La Roma, pur essendo la squadra capitale, è una squadra anomala, più da piccola città che da metropoli. Affetti caldi, emotività, simboli forti e ultra giocano una parte importante nella gestione della società. Conciliare questi due aspetti non sarà facile. E ora gli appuntamenti del giorno. Oggi il presidente della Commissione europea, José Barroso, illustrerà l'esito del vertice di venerdì scorso ai presidenti dei gruppi europarlamentari. A Londra, come abbiamo detto in apertura, si tiene la conferenza del gruppo di contatto sulla Libia e a Roma il commissario europeo all'ambiente, Janez Potocnik, parlerà alle commissioni di Camera e Senato. Questo è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.